dalla finestra, le tuta, le tutte in Cipriada, la dis, la dis, la dis che l'è malata, per non mangiar polenta, bisogna, bisogna, bisogna aver pazienza, la sala, la sala, la sala marina, o oh, la bella Gigogin, contra mille rillellera, la vaspa scorso piccin, contra mille rillella. Anni facevo l'amore, taglio l'amante un passo, delizia del mio cuore. A 16 anni ho preso marito, taglio l'amante un passo, delizia del mio cuore. A 17 mi sono spartita, taglio l'amante un passo, delizia del mio cuore. La vien, la vien alla finestra, le tuta, le tuta, le tuta in Cipriada, la dis, la dis, la dis che l'è malata, per non, per non, per non mangiar polenta, bisogna, bisogna, bisogna aver pazienza, la sala, la sala, la sala marida, o oh, la bella Gigogin, contra mille rillellera, la vaspa scorso piccin, contra mille rillella. Anni facevo l'amore, tagga l'avanti un passo, delizia del mio cuore. A 16 anni ho preso un marito, tagga l'avanti un passo, delizia del mio cuore. A 17 mi sono spartita, tagga l'avanti un passo, delizia del mio cuore. O oh, la bella Gigogin, contra mille rillellera, la vaspa scorso piccin, contra mille rillella. Gigogin, contra mille rillellera, la vaspa scorso piccin, contra mille.